Malinche o La voce dell'acqua di Laura Esquivel. Capitolo 1. Da principio arrivò il vento, poi un lampo simile a una lingua d'argento nel cielo. Attraversò la valle dell'Anahuac, annunciando la tempesta che avrebbe lavato via il sangue dalla pietra. Fu dopo il sacrificio, infatti, che sulla città calarono le tenebre e che si udirono scariche assordanti. Poi in cielo apparve un serpente argentato che fu visto con uguale nitidezza in posti lontanissimi fra loro. Subito dopo cominciò a piovere, come ben poche volte si era visto. Piovve tutto il pomeriggio e tutta la notte e anche il giorno dopo. Per 3 giorni non smise mai di piovere. Piovve talmente tanto che i sacerdoti e i saggi dell'Anahuac si misero in allarme. Erano abituati ad ascoltare e interpretare la voce dell'acqua, ma quella volta capirono che Tlaloc, il dio della pioggia, non cercava semplicemente di mettersi in contatto con loro, ma con quel diluvio voleva illuminarli di una luce nuova, di una visione nuova che avrebbe cambiato il senso della loro vita. Pur non sapendo di cosa si trattava, i sacerdoti lo avvertivano chiaramente in fondo al loro cuore. Poi, prima che fossero riusciti a comprendere correttamente la profondità del messaggio che l'acqua cercava di trasmettere con quel suo lasciarsi cadere, la pioggia cessò di colpo e un sole radioso si rifletté in una moltitudine di specchi, nei mille laghetti, ruscelli e canali che la pioggia aveva riempito d'acqua. Lo stesso giorno, molto lontano dalla valle dell'Anahuac, nella regione di Painala, una donna stava lottando per dare alla luce il suo primo figlio. Nella pioggia che le annegava le spinte. La suocera, che fungeva da levatrice, non sapeva più se prestare attenzione alla nuora partoriente o al messaggio del dio Tlaloc. Non le costò troppa fatica decidersi per la moglie di suo figlio. Il parto era difficile. Nonostante la sua grande esperienza, la vecchia non aveva mai assistito a un travaglio come quello. Durante il bagno nel temashak, che si faceva appena prima del parto, non le era parso che il bambino si presentasse di traverso. Sembrava tutto a posto, eppure quella nascita tanto attesa tardava più del normale. La nuora, che già da un pezzo se ne stava nuda e accucciata, spingeva con tutte le sue forze senza riuscire a partorire, pensando che forse il bambino non riusciva a passare dal bacino. La vecchia preparò il coltello d'ossidiana con cui faceva a pezzi i feti che non potevano nascere. Lo faceva dentro al ventre della madre per facilitare l'espulsione e salvare almeno la madre. Ma all'improvviso la futura nonna, inginocchiata davanti alla nuora, vide che la testa del bambino spuntava dalla vagina e tornava subito indietro e capiva che probabilmente aveva il cordone ombelicale attorno al collo. Subito dopo la testina si affacciò tra le gambe della madre con il cordone ombelicale tra le labbra, come se un serpente imbavagliasse la bocca al nascituro. La vecchia pensò che fosse un messaggio del dio Quetzalcoatl, che sotto forma di serpente si era attorcigliato al collo e alla bocca della creatura e prontamente ci infilò un dito, liberando il bambino. Per qualche secondo, che sembrò durare un'eternità, non accadde nulla. Solo lo scrosciare della pioggia accompagnava i gemiti della partoriente. Poi, quando l'acqua ebbe finito di parlare, si diffuse un gran silenzio, rotto solo dal pianto della bambina, che fu chiamata Malinalli, perché era nata nel terzo carattere della sesta casa. Subito la nonna gridò per far sapere a tutti che sua nuora, da brava guerriera, era uscita vittoriosa dalla lotta tra la vita e la morte, e abbracciò la nipotina, stringendola al petto e coprendola di baci. La neonata, figlia del Tlatoani di Painala, fu dunque accolta dalle braccia della nonna paterna, la quale ebbe subito una premonizione. Il destino di quella bimba era di perdere tutto per trovare tutto, perché solo chi si svuota completamente può essere riempito di nuovo. È nel vuoto che brilla la luce della comprensione, e il corpo della creaturina era come un bel vaso atto a ricevere i preziosi gioielli del fiore e del canto degli antenati, non perché vi si fermassero eternamente, ma per essere riciclati, trasformati e versati via di nuovo. Ciò che invece la nonna non intuì fu che per la neonata la prima perdita era terribilmente vicina e che lei stessa ne avrebbe dolorosamente sofferto. Come la terra, fino a poco tempo prima, aveva sognato fiori, alberi, laghi e fiumi di superficie, così Così la vecchia aveva sognato quella bambina e non pensava certo di poterla perdere. Assistere al miracolo della vita è già abbastanza sconvolgente, senza bisogno di pensare ai molti modi in cui si manifesta la morte: abbandono, perdita, scomparsa. No, in quel momento la sua mente e il suo cuore desideravano solo festeggiare la vita. E così la vecchia, che aveva partecipato attivamente a tutto il parto, guardò con allegra euforia Malinalli aprire gli occhi e muovere vigorosamente le braccia. Poi, dopo averle dato un bacio in fronte, la mise tra le braccia del padre, signore di Painala, che si accinse a celebrare il primo rito della nascita, il taglio del cordone ombelicale. Lo recise con una scheggia d'ossidiana che lei stessa aveva preparato per l'occasione, una pietra levigata con tanta cura da sembrare un lucido specchio nero e non un coltello. Al momento del taglio, il frammento di minerale catturò i raggi di sole che filtravano attraverso il tetto di rami di palma e li rifletté con forza sul viso della vecchia, e la potente luce dell'astro solare penetrò nelle sue pupille con tanta magnificenza da danneggiarle irrimediabilmente la vista. In quel momento la vecchia comprese che il parto era proprio quello, avvicinarsi alla luce, e capì che aiutando la nuora a partorire, lei stessa era diventata un anello di una catena femminile formata da generazioni di donne che si davano alla luce l'un con l'altra. A questo punto la vecchia posò delicatamente la nipotina sul petto della nuora, affinché la giovane mamma potesse darle il benvenuto. Sentendo battere il cuore di sua madre, la piccola seppe di essere in un luogo conosciuto e smise subito di piangere. Allora la vecchia prese la placenta e andò a seppellirla sotto un albero del patio. La terra era talmente fradicia a causa di quella pioggia eccezionale che la sepoltura venne metà nella terra e metà nell'acqua. Il cordone ombelicale di Malinalli fu come affogato nella terra. Così si semina la vita e se ne restituisce l'origine alla terra. Il cordone ombelicale, che unisce la terra al cielo, diventa nutrimento per il nutrimento. Qualche giorno dopo la bambina fu battezzata dalla nonna perché la tradizione affidava questo compito all'allevatrice che aveva collaborato alla nascita di una femmina. La cerimonia ebbe luogo al sorgere del sole. La neonata indossava un huilpil e delle piccole alhajas che la nonna e la mamma le avevano cucito insieme. In mezzo al giardino erano stati preparati un piccolo catino di legno, una cesta, un infuso e una spola. Sui fornelletti di ceramica decorata bruciava il coppale. Con un incensiere in mano, la nonna si voltò verso il sole nascente e disse al vento: Signore del soffio, muovi il mio ventaglio e innalzami fino a te. Dammi la tua forza, o Signore. Quando una lieve brezza le sfiorò il viso, seppe che il momento era propizio per il saluto ai quattro venti e girò lentamente su se stessa verso i quattro punti cardinali, recitando le preghiere di rito. Poi fece passare l'incensiere sotto il corpo della nipotina, mentre il padre la sollevava verso l'alto offrendola al vento. Subito la figuretta ritagliata nell'azzurro del cielo fu avvolta dal fumo del coppale, segno che la purificazione era cominciata. Posando l'incensiere, la vecchia prese dunque in braccio la piccola, la tese verso il cielo, intinse le dita nell'acqua e gliela fece assaggiare dicendo: Questa è la madre e il padre di tutti noi. Si chiama Chalchuclique, dea dell'acqua. Prendila, ricevila nella bocca, essa ti farà vivere su questa terra. Poi, prendendo di nuovo un po' d'acqua con le dita, gliela spruzzò sul petto dicendo: Ecco, con questa dovrai crescere e rinverdire. L'acqua ti purificherà e farà crescere il tuo cuore e le tue viscere. Infine, servendosi di una mezza zucca, le versò un po' d'acqua sulla testa dicendo: Eccoti il fresco e la verzura di Chalchuclique, che è sempre viva e sveglia, che non dorme né si appisola mai, che essa ti accompagni e ti tenga tra le braccia, affinché anche tu su questa terra sia sveglia e diligente. Poi le lavò le manine, perché non diventasse una ladra, e i piedi e l'inguine, affinché non fosse lasciva, e chiese a Chalchuclique, dea dell'acqua, di liberare il suo corpo da ogni male, di allontanare il male da lei e portarlo via con sé. E infine disse: A partire da oggi sarai chiamata Malinalli. Questo nome sarà il tuo destino, quello che ti corrisponde per nascita. Concludendo la cerimonia, il padre prese in braccio Malinalli e le disse le consuete parole di benvenuto con cui sotto forma di orazione o di cantico, si esprime l'accoglienza ai nuovi nati. Eccoti qui, figlia mia, figlia sperata, sognata, mia collana di pietre preziose, mia piuma di Quetzal. Tu, che sei di fattura umana, è nata da me. Tu sei il mio sangue, il mio colore, in te c'è la mia immagine. Piccola mia, osserva con calma. Questa è tua madre, la tua signora. Dal suo ventre e dal suo seno tu ti sei staccata, sei germogliata, come una piccola erba. Così sei spuntata da lei. Come se fossi stata addormentata e ti fossi svegliata. Adesso tu vivi, sei nata, sei stata mandata qui sulla terra dal nostro Signore del vicino e dell'insieme, il facitore delle genti, l'inventore degli uomini. E in quel momento il padre di Malinalli sentì nella mente un'ispirazione che non gli apparteneva. E invece di proseguire con le tradizionali parole di benvenuto, la sua lingua pronunciò un altro canto. Figlia mia, tu vieni dall'acqua e l'acqua ci parla. Vieni dal tempo e sarai nel tempo, e la tua parola sarà nel vento e verrà seminata nella terra. La tua parola sarà il fuoco che trasforma tutte le cose, sarà nell'acqua, sarà lo specchio della lingua. La tua parola avrà occhi e guarderà. Avrà orecchi e ascolterà, avrà tatto per mentire con verità e dirà verità che suoneranno come menzogne. Con essa potrai tornare alla quiete, al principio in cui niente è, in cui niente esiste, dove tutto il creato torna al silenzio. Ma la tua parola lo risveglierà, tuo sarà il compito di nominare gli dèi, di dare voce agli alberi e una lingua alla natura. Per tuo tramite parlerà l'invisibile, diventando visibile nella tua parola. La tua lingua sarà parola di luce e la tua parola pennello di fiori, una parola di colori che nella tua voce dipingerà nuovi codici. Nel 1504, quando il giovane Hernán Cortés mise piede per la prima volta sull'isola de la Española, che oggi comprende la Repubblica Dominicana e Haiti, rendendosi immediatamente conto di essere arrivato in un mondo che non era il suo, la sua immaginazione concepì mille desideri. Come tutti i figli unici, era abituato a ottenere subito ciò che voleva. Nell'età dello sviluppo non aveva dovuto condividere con nessuno i suoi giocattoli e quindi era diventato un bambino capriccioso che quando voleva una cosa se la prendeva. Con tali caratteristiche non c'è di che stupirsi se alla vista di quelle terre la sua mente fu travolta dall'ambizione. Era giunto alla Espagnola di sua volontà, senza appartenere ai ranghi dell'esercito o di un ordine religioso. A spingerlo alla partenza, oltre alle sue manie di grandezza e al desiderio di vedere il mondo, era stato il bisogno di libertà. Le assillanti premure della madre lo soffocavano e avevano fatto di lui un ragazzo debole e malaticcio. Il suo spirito avventuroso mal sopportava la tirannia paterna. D'altra parte, le aspettative esagerate che i suoi genitori riponevano in lui costituivano un peso, una zavorra che lo tormentava. Anche se né il padre né la madre gliel'avevano detto apertamente, in fondo al cuore lui sapeva di averli già delusi per via della sua bassa statura. Non era abbastanza alto per diventare cavaliere ufficiale dell'esercito, non gli restavano che tre opzioni: entrare alla corte del re come paggio, fare il prete o studiare per esercitare un giorno una professione di prestigio. Quando il padre non riuscì a farlo entrare a corte, la prima possibilità fu scartata. Diventò quindi monachello, ma la cosa non durò. Forse il suo carattere non gli permetteva di servire Dio a quella maniera. Da ultimo Cortés si iscrisse all'Università di Salamanca, dove imparò il latino e studiò giurisprudenza. Eppure, a un certo punto, preferì levare l'ancora, salpare per il nuovo mondo in cerca di fortuna. Voleva dimostrare a sua madre di non essere poi tanto basso e a suo padre che non era necessario affaticarsi molto sui libri per avere soldi e potere. Voleva diventare ricco. Perché tutti i nobili sono ricchi e i ricchi fanno ciò che vogliono. Alla Spagnola, finalmente, il suo futuro dipendeva soltanto da lui. Subito prese contatto con i capi spagnoli dell'isola, primo fra tutti il governatore Nicolás de Ovando, che aveva un seguito numeroso. Parlando con quella gente, comprese ben presto il modo di vivere che gli soffriva nel nuovo mondo e senza perdere tempo concepì soluzioni per i problemi di controllo. Stese progetti e convinse tutti che era proprio lui l'uomo giusto per realizzarli. Rapidamente si conquistò la fiducia e la stima dei superiori, non solo sconfiggendo gli indigeni in battaglia e collaborando a reprimere rivolte, ma anche progettando strade e sentieri per coprire le distanze in meno tempo e con più sicurezza. E il risultato fu che gli affidarono un'encomienda di notevole valore in una zona in cui si coltivava la canna da zucchero. Ma ciò non gli bastava. La sua ambizione non era ancora soddisfatta. Lui aveva bisogno dell'oro, di tutto l'oro, su cui riusciva a mettere le mani. Voleva sbalordire il mondo. Un mattino, scrollandosi di dosso il timore di mostrarsi in pubblico senza la consueta eleganza, decise di togliersi gli stivali, che gli davano qualche centimetro in più, e tutti i vestiti per sentire il suo corpo così come natura l'aveva fatto. Desiderava soprattutto dare sollievo ai piedi, piagati e infettati dai funghi che si era beccato a bordo della nave con cui era arrivato nel nuovo mondo e che non era più riuscito a eliminare. Il piacere di camminare a piedi nudi nella sabbia gli risollevò il morale. La pace del mattino era così solenne che ringrazio Dio per la vita che gli aveva donato e per l'opportunità di vivere quel particolare momento storico. Camminò verso il mare e si fece sciacquare i piedi dalle onde. Provò un immediato sollievo e capì che il mare, così come puliva i vestiti dei marinai, avrebbe curato anche le sue ferite. Durante le lunghe traversate, infatti, l'unico modo di lavare gli abiti era quello di legarli ben stretti in una rete da pesca e gettarli fuori bordo. Man mano che la nave avanzava, il mare penetrava nelle fibre, mondandole da ogni impurità. Rimase a lungo sul bagnasciuga, lasciandosi lavare le piaghe dalle onde. In piedi, davanti all'orizzonte, ripensò alle lunghe giornate di navigazione, quando disteso sul ponte osservava il cielo e le stelle, aprendo la mente e arrivando per la prima volta a capire con assoluta chiarezza la rotondità della Terra e l'infinita estensione del cosmo. Poi si allontanò dall'acqua e si sdraiò sull'erba, esponendo i piedi ai benefici e purificatori raggi del sole. Si coprì gli occhi con il braccio per proteggerli dalla luce di mezzogiorno e svuotò la mente. Il remoto fruscio delle onde lo cullava e per un istante fu vinto dalla sonnolenza. In quell'istante, approfittando della sua distrazione, uno scorpione velenoso lo morse, scaricandogli in corpo tutto il suo veleno. Per 3 giorni Cortés si dibatté tra la vita e la morte. Furono giorni di pioggia e di preghiere. L'isola fu investita da un temporale fortissimo, piovve ininterrottamente giorno e notte, ma Cortés non sentiva i tuoni, mentre gli amici che lo assistevano ascoltavano stupiti e spaventati le parole che pronunciava nel delirio. Parlò il latino e in altre lingue sconosciute, gridò e sussurrò. Disse che c'era un sole enorme che cresceva e cresceva, un sole che sarebbe esploso, spargendo sangue dappertutto. Disse che gli esseri umani avrebbero volato senza una terraferma su cui posare i piedi, che si sarebbero versate molte lacrime, che un insopportabile tanfo di morte gli avrebbe invaso il corpo. Pronunciò il nome di sovrani Mori, commentò le sconfitte storiche della Spagna, si lamentò della crocifissione di Cristo, si raccomandò alla Vergine di Guadalupe, gridò maledizioni e disse che a morderlo era stato un serpente gigantesco, che lui stesso aveva visto levarsi in aria e volare e continuò a delirare finché non cadde addormentato. Alcuni allora lo presero per morto e, vedendolo così in pace, pensarono di seppellirlo la mattina dopo. Ma quando il corteo funebre arrivò nel luogo prescelto per dargli sepoltura cristiana, Cortés aprì gli occhi e miracolosamente cominciò a riprendersi. Tutti notarono che lui si era verificata una strana trasformazione e sentirono che dal loro compagno emanava una nuova forza, una nuova potenza, e si congratularono con lui, dicendo che era nato per la seconda volta.